البلاد طردوا الأجداد. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. Buongiorno Palestina, 149esima trasmissione su Radio Wombat. Dedichiamo la trasmissione di oggi quasi interamente alla rassegna stampa. Vi chiederete che qualità possono avere le nostre notizie, quali sono le fonti da cui le attingiamo e quali aree geografiche ricoprono. Non abbiamo problemi a rivelarvelo. Consultiamo oltre 60 siti italiani, palestinesi, israeliani, americani ed europei. Prendiamo in considerazione articoli, libri, convegni, conferenze, manifestazioni, eventi politici e culturali. Selezioniamo gli argomenti che possono essere di attualità e anche di maggiore attenzione in un dato momento, ma non escludiamo quelli che possono fornire chiarimenti o rivelazioni su fatti del passato. Quando possiamo, quando è possibile, cerchiamo di offrire sullo stesso argomento diversi punti di vista. La nostra informazione è libera e indipendente. In questa trasmissione di oggi ci alterneremo nella rassegna stampa tutti noi della redazione, offrendovi un esempio di una rassegna che spazia dall'attualità agli approfondimenti, alle recensioni di libri, alle inchieste e ai reportage. Proprio in questo momento, mentre stiamo montando questa trasmissione, è arrivata la notizia che la tregua a Gaza è stata interrotta da una nuova strage. Netanyahu ha ripreso l'aggressione sulla popolazione sfollata di Gaza, con bombardamenti aerei su tutta la striscia e in particolare sui campi di sfollati a Khan Yunis, che hanno provocato la morte di 356 persone e altri 440 feriti, vittime della furia omicida di Israele. La protezione civile palestinese è in una corsa disperata per trasportare corpi e feriti verso gli ospedali. Per le strade ci sono ancora molti cadaveri. Negli ospedali manca il sangue per le trasfusioni. Nella notte si sono formate lunghe file di donatori davanti agli ospedali, sia a Gaza città sia nel sud. Vi daremo ulteriori aggiornamenti alla fine di questa trasmissione. نحملها جرحا أو أملا، لا لا لا لا لا، لو رح نبقى فيها اليوم الدين لن نسكت لن نستسلم، لا لا لا لا لا لا، نفديك لنحيا يا فلسطين. La rassegna stampa di Buongiorno Palestina su Radio Wombat. That once again across the land your people can be free. Oh Palestine, oh Palestine. Buongiorno Palestina, sono Angela. Per la rassegna stampa di oggi vorrei segnalare l'articolo pubblicato dal Manifesto e che potete leggere sul sito dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese dal titolo Le manette intelligenti di Israele, in cui sono evidenziate alcune importanti novità sull'uso dell'informatica da parte di Israele, emerse da un'inchiesta della rivista israelo-palestinese 972 Mag. L'esercito israeliano, attraverso la famosa unità 8200, sta sviluppando un nuovo strumento di intelligenza artificiale, molto più sofisticato di ChatGPT, che consente, attraverso la registrazione di milioni di conversazioni in arabo ottenute dalla sorveglianza dei palestinesi nei territori occupati, di generare, ad esempio, risposte a domande su specifici individui in modo da aumentarne il controllo, o anche in funzione della prevenzione di eventuali attacchi con armi, o semplicemente per individuare costruzioni in area C in Cisgiordania. Insomma, per poter sapere in ogni momento che cosa fanno i palestinesi. Questo sistema è stato allenato su 100 miliardi di parole in arabo ottenute in gran parte attraverso la sorveglianza dei palestinesi da parte di Israele. E questo costituisce una grave violazione dei diritti umani, poiché si tratta di informazioni personali estratte da conversazioni di persone che non sono sospettate di aver commesso alcun reato, ma semplicemente per allenare uno strumento che potrebbe servire poi a stabilire un sospetto, come ha detto Zach Campbell di Human Rights Watch. Il sistema raccoglie e analizza anche modelli di conversazione che apparentemente non hanno nessun valore perché semplici conversazioni, ma che possono fornire informazioni alle unità di intelligence per sviluppare ulteriormente il sistema. Tutto ciò per arrivare a compilare il maggior numero di liste di sospettati, per poi procedere ad arrestare il maggior numero di palestinesi. Buongiorno Palestina, e questo è Claudio. L'articolo che vorrei commentare ha per titolo Italia-Germania, strategie contro l'antisemitismo a confronto. L'articolo è stato pubblicato su Pagine Ebraiche del 5 marzo e descrive l'incontro tenutosi presso l'ambasciata tedesca di Roma il 4 marzo. Incontro tra il generale dei carabinieri Pasquale Angelo Santo, coordinatore nazionale italiano per la lotta contro l'antisemitismo, con il suo corrispondente tedesco Felix Klein. Angelo Santo è stato nominato da Giorgia Meloni a fine 2023 a questo incarico. Ci si deve dunque allarmare che il modello repressivo tedesco sull'antisemitismo possa venir visto in termini emulativi da Angelo Santo, il quale è appiattito sulle posizioni dell'UCEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che lui dichiara di essere l'UCEI il suo interlocutore di riferimento. Peraltro tutto lo staff governativo che si occupa di antisemitismo risulta tutto accuratamente scelto tra persone di sicura fede israelista. Angelo Santo ha prodotto un piano per contrastare l'odio antisemita e per ora valgono le linee guida per il contrasto dell'antisemitismo nella scuola stilate nel 2021, in queste linee guida il riferimento è solamente quello dell'AIRA, o IRA come la volete chiamare, cioè l'ente che definisce che cosa è antisemitismo e che cosa no. Ente molto, molto contrastato e molto criticato. In base a questi piani del generale Angelo Santo, risulta che centinaia di docenti sono stati già formati da parte dell'UCEI. Si tratta di seminari di 5 giorni che tra gli obiettivi, si legge nelle descrizioni, sono per riconoscere e contrastare nel presente la negazione e la distorsione della Shoah, per identificare le manifestazioni attuali di antiziganismo e di antisemitismo, in particolare quelle che caratterizzano il periodo successivo al 7 ottobre 2023. In conclusione, Vogliono farci fare la fine della Germania? Ne ha parlato recentemente all'Arci di Via Maccari Donatella Della Porta nell'illustrare il suo libro intitolato Guerra all'antisemitismo? Punto interrogativo, e che ha per sottotitolo Il panico morale come strumento di repressione politica. لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم كثير رح نبقى فيك يا فلسطين. Buongiorno Palestina, sono Sara e per la rassegna di oggi segnalo l'articolo di Nada Elia per Mondwise, Il sionismo liberale ruba la scena agli Oscar, del 4 marzo 2025. All'inizio di marzo, il film documentario No Other Land, codiretto da due registi israeliani e due palestinesi, fra cui due protagonisti, Basel Adraa e Yuval Abraham, vince l'Oscar per il miglior documentario a Hollywood. Il film è stato girato fra il 2019 e il 2023 e racconta la distruzione della comunità palestinese di Masafer Yatta, zona della Cisgiordania occupata, considerata area C, da Israele. Una comunità, quella di Masafer Yatta, che ha continuato a resistere ai continui tentativi di rimozione forzata che vanno avanti dagli anni 90, dopo che il regime israeliano ha dichiarato quella terra palestinese zona di addestramento militare. Il rischio di espulsione e rimozione forzata è diventato tanto più cogente dopo la definitiva pronuncia della Corte Suprema israeliana alla quale le famiglie palestinesi si erano appellate. Dopo 22 anni di ricorsi in tribunale, il regime ha emesso la definitiva sentenza che ha dato il via libera, senza possibilità di revoca, al trasferimento forzato di oltre 1.100 palestinesi. Secondo l'analisi di Nada Elia, durante la consegna dell'Oscar, il discorso del co-regista Yuval Abraham ha esemplificato l'ideologia del sionismo liberale, mettendo al centro le esigenze israeliane a discapito della libertà del popolo palestinese e sminuendo la resistenza dei soggetti palestinesi per mettere al centro il buon salvatore israeliano. Il co-regista avrebbe potuto menzionare la carestia imposta a Gaza, invece di citare i crimini commessi il 7 ottobre. Avrebbe potuto chiedere l'attuazione della fase 2 dell'accordo di cessate il fuoco, mentre Israele lo sta impedendo, piuttosto che richiamare l'attenzione su un generico rilascio degli ostaggi. Sono ampie le riflessioni e le critiche emerse a seguito di questa vittoria, e ne citiamo alcune. Il pericolo di normalizzazione nel contesto del patinato e imperiale mondo degli Oscar, la deriva fantasiosa dell'accostamento fra la voce dell'oppresso e dell'oppressore, che non possono e non devono avere lo stesso peso, l'entrata di un film palestinese nell'industria coloniale, il rischio di dare una rappresentazione alterata degli israeliani cosiddetti buoni anti-occupazione, che rimangono sempre e comunque si comportino dei coloni. Quello che importa, più di tutto, è che gli arresti arbitrari e le demolizioni ordinate dal regime di occupazione continuano indisturbate a Masafer Yatta e altrove. Le demolizioni costituiscono un elemento onnipresente e fondamentale dal 1947 nel sistema di dominazione e occupazione israeliano. Dal 2022 al 2024 c'è stato un incremento del 174% nelle demolizioni attuate dal regime israeliano, con una media nel 2024 di 17 abitazioni distrutte alla settimana. Allo stesso tempo continuano e si intensificano gli attacchi dei coloni, che vivono negli insediamenti illegali a Masafer Yatta come in tutto il resto della Cisgiordania. Gli attacchi colpiscono le famiglie palestinesi e le loro proprietà quasi ogni singolo giorno, nonostante, o forse proprio per quello, il film abbia vinto l'Oscar. I coloni attaccano i pastori, organizzano in branchi pogrom nei villaggi palestinesi, colpiscono la terra coltivata e il bestiame, entrano nelle case e attaccano le famiglie che ci vivono. tutto con l'obiettivo di terrorizzare e costringere i palestinesi ad andarsene e impadronirsi della loro terra. L'obiettivo è sempre e soltanto stato quello della pulizia etnica e dell'eliminazione. A Gaza, come in Cisgiordania. Buongiorno Palestina, sono Angela. Nell'articolo pubblicato su Infopal dal titolo Hamas accetta di rilasciare il prigioniero israeliano statunitense in cambio della ripresa dei negoziati, si dà notizia della proposta fatta dai mediatori per riprendere i negoziati tra Hamas e Israele. Hamas avrebbe accettato di rilasciare un prigioniero con doppia cittadinanza israeliana e statunitense, insieme ai corpi di altri 4 prigionieri, in cambio della ripresa delle trattative con Israele, per giungere ad un accordo globale sull'avvio della seconda fase, esortando Israele al rispetto degli impegni presi. لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا, لا, لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم كثير رح نبقى فيك يا فلسطين. Buongiorno Palestina, e questo è Claudio. Faccio qualche commento sull'ultimo libro di Anna Foa, storica, libro dal titolo Il suicidio di Israele, pubblicato già nell'ottobre del 2024, in quanto questo libro è un libro che ha significativamente agitato le acque nell'ambiente ebraico italiano, poiché Anna Foa è assai considerata nell'ambiente ucei. Il libro richiede infatti, senza mezzi termini, il riconoscimento dello Stato di Palestina, condanna il fanatismo e gli insediamenti, legittima la definizione di antisemitismo JDA, cioè in opposizione a quella dell'IRA, denuncia l'inerzia dell'ebraismo europeo. Più esplicite ancora sono le posizioni che Foa ha espresso in interviste rese successivamente. La ricostruzione della storia di Israele nel libro è fatta per sommi capi e secondo me manca di aspetti significativi, l'omicidio di Dehan, il significato dello sgombero di Gaza nel 2005, il rifiuto occidentale dei risultati elettorali a Gaza, le forme di lotta non violenta, tra cui la grande marcia del ritorno. Osservazioni acute, invece, e chiarificatrici riguardano quei fatti e quegli eventi che sono stati pietre angolari nella costruzione dell'identità dello Stato di Israele e che quindi aiutano a capirne i caratteri sia dello Stato che della società. Quel che desta perplessità è invece il credito che Foa attribuisce alle atrocità attribuite a Hamas il 7 ottobre, cioè a quella che chiama mattanza accompagnata ovunque dallo stupro sistematico di donne e uomini. Qui il linguaggio adottato è quello del rapporto Silent Cry, in cui la rappresentante ONU aveva trovato ragionevoli motivi di credibilità, aveva detto, però non dati informativi chiari e convincenti. Queste le parole della rappresentante. Conviene allora ricordare per sommi capi alcuni aspetti di quella giornata. Allora, la notizia di 40 bambini decapitati fu ritrattata una settimana dopo dallo stesso funzionario di Zaka. Zaka è l'agenzia dell'esercito, tale Yossi Landau, questo qui, che aveva dato questa notizia, poi se l'è rimangiata. La donna incinta a cui è stato estratto il feto dopo averla violentata è risultata inesistente. Le 3 donne ebree violentate e poi uccise, le cui foto furono mostrate nell'università di Harvard da parte dell'avvocatessa israeliana Elkayam Levi, sono risultate invece le foto di tre donne curde uccise dall'ISIS 6 mesi prima. L'avvocatessa, che aveva raccolto 8 milioni di dollari per dimostrare, cito, «i terroristi di Hamas hanno sistematicamente compiuto atti di stupro e abusi sessuali», questo è quello che secondo lei hanno dimostrato, questa avvocatessa è stata poi denunciata per truffa. Infine, 15 mesi dopo, il 7 ottobre, nessuna vittima di stupro risulta reperibile. Il 10 gennaio del 2025 il procuratore israeliano Moran Gaz ha confermato che non sono state presentate accuse di stupro o aggressioni sessuali nei confronti da parte di Hamas per i fatti del 7 ottobre. Tutto questo malgrado l'accurata ed affannosa ricerca di vittime effettuata dalla stessa Gaz, la quale Gaz consiglia: a questo riguardo abbasserei le aspettative. Quale che sia dunque la verità su questa giornata del 7 ottobre, questa verità la si saprà se e quando i documenti che la riguardano verranno desecretati. Intanto le narrazioni israeliane sono state utili a inorridire il mondo, a disumanizzare i combattenti palestinesi, a legittimare il genocidio, a tranquillizzare il cecchino israeliano quando spara alla testa di bambini palestinesi. Si è trattato di versioni golosamente accolte dalla stampa mainstream nostrana, così come anche recentemente accaduto per i bambini Bibas, morti in cattività, dei quali il portavoce dell'esercito israeliano si è affrettato a dichiarare che erano stati strangolati a mani nude. Dichiarazioni queste che la denuncia inoltrata dagli avvocati della famiglia Bibas definisce intempestive e non documentate, volte a soddisfare le richieste voyeuristiche del pubblico israeliano. Buongiorno Palestina, sono Sara. Altro articolo che segnaliamo è un articolo uscito sul Manifesto il 14 marzo, dal titolo «La striscia degli orrori, atti genocidari su donne e bambini», di Eliana Riva. Il 13 marzo è stato pubblicato un nuovo rapporto dal titolo «Più di quello che un essere umano può sopportare», da parte della Commissione internazionale e indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme Est. Secondo il rapporto, Israele ha utilizzato la violenza sessuale, la violenza riproduttiva e altre forme di violenza di genere contro i palestinesi, in quanto parte di uno sforzo più ampio per minare il loro diritto all'autodeterminazione, e ha compiuto atti di genocidio attraverso la distruzione sistematica di strutture sanitarie e riproduttive. Il rapporto documenta un'ampia gamma di violazioni perpetrate contro uomini, donne e minori palestinesi dal 7 ottobre 2023. Nel rapporto si rileva che la violenza sessuale e di genere contro donne e uomini viene perpetrata da Israele come strategia di guerra per punire, per umiliare e distruggere il popolo palestinese nel suo complesso, e che queste strategie costituiscono parte delle procedure operative standard delle forze di occupazione israeliane. Oltre alla violenza sessuale e di genere, è stata inflitta sulle donne palestinesi violenza riproduttiva, tesa a limitare la capacità riproduttiva. Una violenza sistematica che ha causato l'aumento degli aborti spontanei e delle morti fra le madri e i neonati. Impossibilità di accesso a cure neonatali e postpartum, mancanza di farmaci e attrezzature mediche, tagli cesarei senza anestesia, infezioni, attacchi mirati ai reparti maternità degli ospedali. Tutto questo ha reso estremamente pericoloso sia la gravidanza che il parto. Secondo una testimonianza di un'ostetrica citata nel rapporto, dare alla luce a Gaza oggi è come partorire nel Medioevo. Fra gli efferati crimini commessi da Israele, tesi a impedire e limitare le nascite, c'è la distruzione deliberata delle strutture sanitarie e riproduttive, fra cui la più grande clinica per la fertilità della Striscia, bombardata nel dicembre del 2023. Il bombardamento ha causato la perdita di tutto il materiale genetico che veniva lì conservato. Le conclusioni della commissione si basano sulle testimonianze delle vittime, sulle testimonianze di testimoni e degli operatori sanitari, così come sulle informazioni fornite dalle associazioni della società civile palestinese e anche sull'analisi di filmati, di video girati dai palestinesi e anche dei video condivisi sui social dei soldati israeliani. Il 33% di tutte le vittime palestinesi registrate a Gaza dal 7 ottobre 2023 a gennaio 2025 sono di sesso femminile, sono adulte e bambine. Le misure volte a negare i diritti riproduttivi delle donne e delle ragazze palestinesi e a impedire le nascite all'interno del gruppo, così come i tentativi di provocare la distruzione fisica attraverso la sistematica violenza sessuale, costituiscono, secondo le conclusioni del report, atti di genocidio e crimini contro l'umanità, come sancito dallo Statuto di Roma e dalla Convenzione contro il genocidio. لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم كثير رح نبقى فيك يا فلسطين. Trasmettiamo ora una breve intervista a Paola Caridi su Internazionale. Il 9 marzo Israele ha interrotto la già limitata fornitura di elettricità alla Striscia di Gaza nel tentativo di aumentare le pressioni su Hamas mentre sono in corso dei negoziati sul fragile cessate il fuoco nel territorio palestinese. Il ministro dell'energia israeliano Eli Cohen, che avete ascoltato, ha detto che Israele userà tutti i mezzi a sua disposizione per garantire il ritorno di tutti gli ostaggi israeliani e che Hamas non rimanga a Gaza dopo la guerra. Il 1 marzo la prima fase del cessate il fuoco è scaduta senza che Israele e Hamas abbiano trovato un accordo per l'attuazione della seconda fase. Ne parliamo con Paola Caridi, giornalista e presidente di Lettera 22, autrice tra gli altri di Il gelso di Gerusalemme, da poco pubblicato da Feltrinelli. È solo l'atto più recente nella chiusura totale di Gaza, nel blocco totale degli aiuti umanitari, di cibo, acqua, carburante per far funzionare i generatori, per far funzionare i panifici. Quindi la chiusura del passaggio di elettricità fra Israele e Gaza è solamente l'ultimo atto ed è un atto nero su bianco che per i giuristi si conclama come un crimine di guerra, nel senso che Israele controlla la Striscia di Gaza, è dentro la Striscia di Gaza, è potenza occupante e non può non dare elettricità a Gaza. Il 2 marzo Israele aveva già bloccato l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia. Cosa vuole ottenere? Ma vuole ottenere con una pressione così forte, che è tutta concentrata peraltro sui civili palestinesi, che la prima fase del cessate il fuoco continui, che quindi non si passi a una discussione della seconda fase. Perché? Perché la seconda fase del cessate il fuoco in questo caso fa pagare a Israele un prezzo che Israele non vuole pagare, cioè l'uscita delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza. La questione della cosiddetta Philadelphia Route, che è quel percorso che è a sud della Striscia di Gaza, quindi fra la Striscia di Gaza e il Sinai egiziano, e in cui l'Egitto deve dare il benestare su chi controllerà la Philadelphia Route e in quale modo, e poi apre le porte per la ricostruzione di Gaza. Ricostruzione di Gaza che non farà né Israele né Trump, ma farà molto probabilmente per l'ennesima volta, perché si tratterebbe della quinta ricostruzione di Gaza, che farà la regione araba, nel senso i paesi arabi e i donors internazionali. È per questo che Israele blocca tutto e secondo me, dal punto di vista politico, blocca tutto perché non c'è una visione su Gaza, mentre ce n'è una che è in atto in Cisgiordania, non solo propugnata da Netanyahu, ma sostenuta e propugnata in particolare dall'estrema destra al governo, Smotrich e Ben-Gvir, di annessione di fatto e de iure della Cisgiordania e di smantellamento dei campi profughi, in particolare nel nord della Cisgiordania in questo momento, ma non solo, che è una strategia e un obiettivo che ha già provocato un'altra questione, che è questione di giustizia internazionale, cioè lo sfollamento di 40.000 palestinesi dai campi profughi della Cisgiordania. Questo blocco dell'elettricità e degli aiuti coincide con l'inizio del Ramadan. Cosa significa questo per le persone che si trovano nella striscia di Gaza? Vuol dire un incubo dentro l'incubo, vuol dire l'inferno dentro l'inferno, non perché non ci fosse già l'inferno prima del blocco degli aiuti, perché ricordiamo che gli aiuti sono cominciati con il cessate il fuoco, ma non tutti gli aiuti che sono stati concordati con il cessate il fuoco firmato da entrambe le parti a metà gennaio sono riusciti a entrare, per esempio le cosiddette case mobili, cioè container in cui gli sfollati di Gaza avrebbero potuto avere un po' di respiro e per esempio un bagno, una toilette, non sono entrate, ne sono entrate poche decine che servono soprattutto per i pochi ospedali rimasti in piedi e le tende ne sono entrate un decimo, quindi come dire l'incubo era già prima di questo blocco totale del 2 marzo. È una pressione indebita che parla di punizione collettiva su oltre 2 milioni di palestinesi di Gaza, civili, che stanno già subendo l'inferno dopo il 7 ottobre, dopo l'attacco terroristico di Hamas dentro Israele. Da allora, cioè parliamo di 17 mesi, l'inferno è già in terra a Gaza, quindi è solo l'ultimo episodio che ovviamente durante il periodo di Ramadan si amplifica, perché il Ramadan significa vita in famiglia, significa sacrificio, e cioè di una riflessione su se stessi, di un bilancio della propria vita, e in questo caso significa il dolore per coloro che ogni famiglia ha perso. Domenica Hamas ha confermato di aver avuto dei colloqui diretti con funzionari statunitensi per la liberazione di alcuni ostaggi israeliani, mentre ieri il governo israeliano ha inviato una delegazione a Doha per riprendere i negoziati. Cosa sta succedendo e cosa potrebbe sbloccare la situazione? Questa è la parte più interessante di questi ultimi giorni, perché gli Stati Uniti, l'amministrazione Trump, ha rotto l'ultimo tabù, cioè quello del contatto diretto con Hamas. In tutti questi anni Israele ha tenuto il punto, nessuno doveva parlare con Hamas, nessuno, Stati Uniti, comunità occidentale, tutti quei paesi che avevano inserito Hamas nella lista delle organizzazioni terroristiche, nella lista nera. In compenso però Israele ha sempre trattato con Hamas e tratta con Hamas sin dalla creazione del movimento di resistenza islamica dal 1987 ad oggi, ha trattato e negoziato tregue, cessate il fuoco almeno dal gennaio del 2009 a oggi, quindi ciò che era precluso ad altri era invece consentito a Israele. L'amministrazione Trump rompe il tabù, manda Adam Böhler a Doha. Doha si qualifica come il centro nodale in cui ci sono tutti. E quando dico ci sono tutti, ci sono da Hamas agli Stati Uniti. Hamas con il suo ufficio di collegamento, costituito nel 2014 per precisa richiesta degli Stati Uniti, come affermato negli scorsi giorni dal primo ministro del Qatar, Mohammed Al-Thani. Ci sono gli Stati Uniti con la più grande base aerea fuori dal territorio americano, base aerea che è proprio alle porte di Doha, quindi ci sono tutti. Mancava questo contatto diretto, che a questo punto c'è, come c'è sempre stato in tutte le storie dei conflitti e delle guerre, cioè un contatto diretto fra nemici, fra le persone che si odiano, fra gli avversari. Questo mette Israele in una posizione subalterna nei confronti degli Stati Uniti ed era già successo con la conferenza stampa fatta a sorpresa da Trump con Netanyahu presente, in cui parlò di Gaza trasformata, ricostruita, ma ne parlò senza averne parlato prima con Netanyahu. Per l'ennesima volta, e forse questa è la storia più interessante, in una storia molto interessante, è l'amministrazione Trump che dirige il gioco, non è Israele che influenza gli Stati Uniti, e questo è estremamente importante. Torniamo al futuro di Gaza a cui accennavi prima e di cui si parlò appunto in quella conferenza stampa. Il 4 marzo i leader arabi riuniti al Cairo hanno approvato un progetto per la striscia alternativo a quello proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Di che si tratta? Gli stati arabi riuniti non a caso in Egitto hanno deciso all'unanimità una ricostruzione in cui i palestinesi di Gaza non vengono espulsi da Gaza, rimangono a Gaza. È una ricostruzione complessa di cui sono stati forniti anche i dettagli, con città ricostruite che hanno un proprio ruolo all'interno della striscia di Gaza, da Rafah a Gaza City, al nord della striscia. Parliamo di 53 miliardi di dollari per ricostruire Gaza. A questo piano non hanno solo aderito gli stati arabi, ma hanno detto già un sì alcuni paesi europei, Italia compresa. Cosa significa? Che si comprende bene che il piano Trump della Riviera e del famoso video di intelligenza artificiale che abbiamo, ahimè, tutti visto, non è reale, non riesce a impattare su una realtà che è molto più complessa e secondo me c'è anche un secondo problema, e cioè quella ricostruzione di cui parlava Trump cancella le tracce del genocidio. Cancella le prove nella scena del crimine, cosa che molto probabilmente gli stati arabi non vogliono fare. Grazie a Paolo Caridi. Grazie a voi. Buongiorno Palestina, sono Gianna. Se Paola Caridi nell'intervista internazionale ci rassicura dicendo che i paesi arabi non accetteranno mai il piano Trump per Gaza, l'articolo di Michele Giorgio sul manifesto del 15 marzo è una vera e propria doccia fredda. Infatti, da quando il segretario di Stato Marco Rubio, nella risoluzione approvata dal G7 dei ministri degli esteri, ha fatto cancellare dal testo finale tutti i riferimenti alla soluzione a due stati per israeliani e palestinesi, questa soluzione a due stati è diventata ora solo un orizzonte politico. Ma quale orizzonte politico va sostenendo Israele, che dopo l'apparente marcia indietro di Trump sull'espulsione dei palestinesi, dichiarata 3 giorni fa, trama ora la deportazione della popolazione nei paesi africani, il Sudan, la Somalia e Somaliland? Anche se dall'Africa arrivano smentite e l'Egitto si presenta con un piano di ricostruzione di Gaza da milioni di dollari a garanzia della popolazione, il ministro delle finanze israeliano Smotrich promuove la creazione di un dipartimento per l'emigrazione con il proposito di individuare i paesi disposti ad accogliere fino a 5.000 palestinesi al giorno. I 3 paesi citati versano in cattive condizioni economiche, ma respingono la proposta. L'anello debole sembra essere solo la Somaliland, paese resosi indipendente dalla Somalia circa 30 anni fa, ma senza un riconoscimento internazionale. La determinazione USA-Israele potrebbe incontrare complicità internazionali? Nella seconda parte della trasmissione abbiamo selezionato alcuni interventi nell'incontro di Defense for Children International per la 58ª sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, Interventi dal titolo Proteggere i diritti dell'infanzia in Palestina, rinforzare la responsabilità internazionale con focus sull'accountability su minori palestinesi. Il video della sessione è stato mandato in onda in diretta streaming con la traduzione simultanea in italiano venerdì 14 marzo in collaborazione con Pagine Esteri ed è possibile rivederlo su YouTube al link che troverete sulla nostra pagina della trasmissione di oggi. Buon ascolto. La nostra commissione quantomeno consente di stabilire con chiarezza i fatti, così che non ci possano essere controversie o dispute su ciò che è avvenuto. E questo è il minimo che possiamo fare, determinare i fatti a livello storico. E poi in secondo luogo, e direi che è altrettanto importante, possiamo essere un veicolo attraverso il quale coloro che subiscono queste violenze possono parlare e raccontare la propria storia. Le indagini che abbiamo fatto sull'uccisione di Hind Rajab e la sua famiglia è un ottimo esempio. L'uccisione di questa ragazza e dei minori nella sua famiglia, degli adulti nella sua famiglia, e di due professionisti sanitari che hanno cercato di intervenire, è diventata molto nota attraverso i video che abbiamo creato e prodotto. Ma oltre al video, in realtà, siamo riusciti a effettuare un'analisi militare del perché è avvenuto. Quella è stata l'unica inchiesta ufficiale che è riuscita a identificare e nominare l'unità militare israeliana che ha colpito l'auto e quindi ucciso i minori, gli adulti e i paramedici. E chiaramente quell'informazione è stata fornita alla Corte Penale Internazionale. Quindi il lavoro di una commissione d'inchiesta come la nostra è fondamentale per il processo di accountability. Farlo pubblicamente è importante, farlo in collaborazione con la Corte è importante. Condividiamo la frustrazione generale in merito a quanto si muove lentamente la giustizia internazionale, però dall'altra parte ci sono eventi incoraggianti come quelli di quest'ultima settimana in cui l'ex presidente delle Filippine è stato incarcerato, è in carcere all'AIA, e questo dimostra che l'accountability è lenta, è difficile, ma è possibile. E quindi io davvero attendo la giornata in cui vedremo in carcere all'AIA alcune delle persone che sono responsabili di ciò che è avvenuto negli ultimi mesi. Yeah, the people they won't leave. What is threatening about divesting and want a peace? The problem isn't the protest, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was seven, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means. Diamo la parola quindi a Khaled Kusmar, che è il presidente di DCI Palestina e anche il direttore generale appunto di questa sezione di DCI. È un avvocato e vorrei chiedere a Khaled, in quanto avvocato e difensore dei diritti umani che si occupa di accountability ormai da 30 anni, come valuta il ruolo dell'accountability relativamente alla violazione dei diritti dei minori in Palestina? Qual è lo stato attuale dell'accountability per la violazione dei diritti umani e che impatto ha questo sulla protezione? Quindi, qual è il legame tra accountability e l'attuale situazione dei minori? E chiaramente le può parlare sia per Gaza che per la Cisgiordania. Vediamo se la sentiamo. Ecco, sì, perfetto, grazie Alex, grazie per questo ottimo evento collaterale. È un piacere accompagnare questi illustri relatori. Quindi è da 30 anni che lavoriamo sul campo. E l'accountability è la principale cosa di cui abbiamo bisogno. I reati contro l'umanità, il genocidio israeliano sono ben documentati, però Israele continua con le uccisioni. L'accountability quindi è fondamentale, soprattutto per le persone che non fanno altro che attendere di essere uccise, di perdere la vita, di vedere i propri diritti violati, perché Israele non vuole assumersi la responsabilità di nessun atto criminale che sta commettendo, e quindi il ruolo della comunità internazionale è proprio quello di lavorare per attivare i meccanismi internazionali di accountability. Purtroppo molti stati non sono disposti ad agire, e quindi vediamo la mancanza di volontà politica di spingere Israele ad assumersi la sua responsabilità. Ma la mancanza di accountability significa impunità. E questa impunità la vediamo da decenni. The silence of the international community, the failure of the international community to provide a child or with a piece of bread. La comunità internazionale dovrebbe invece aiutare, intervenire per consentire quantomeno ai minori di avere accesso anche solo a un pezzo di pane. Ma poiché non interviene, la comunità internazionale fallisce nel suo compito di salvare la comunità civile. E quindi in questo senso dà un po' una luce verde a Israele perché continui nella sua azione. Israele ormai ha distrutto quasi tutto a Gaza. Non voglio parlare dei minori o dei civili uccisi riferendomi solo ai numeri, parliamo solo di migliaia e migliaia, decine di migliaia di persone. Parliamo di scuole, università distrutte. E adesso Israele commette crimini anche in Cisgiordania, oltre a Gaza. Now they follow them in the refugee camps, and I can say that according to the UN statistics, more than secondo Palestinian civilians displaced. I dati dell'ONU, ci sono 15.000 palestinesi nei campi profughi in Cisgiordania, soprattutto nella parte nord. Ma Israele continua con la sua impunità e continua a commettere crimini, e questa è responsabilità della comunità internazionale. Sono molto felice di aver letto le conclusioni della relazione della Commissione indipendente d'inchiesta. Conclusioni che sono arrivate dopo una serie di indagini sui crimini commessi da Israele. Israele che si macchia anche dell'occupazione illegale dei territori. Gli stati, spesso gli stati occidentali, tra l'altro, tra cui gli stati europei, in realtà difendono, o anzi promuovono l'impunità di Israele. E questo però consente a Israele di continuare a commettere reati. Questo è ciò che viviamo noi, ciò che subiamo noi a causa di questo doppio standard, due pesi e due misure. And of course the complicity. I'll stop here in order to give time to Francesca and if there mi fermo qui perché preferisco lasciare il tempo necessario a Francesca per la sua relazione. Grazie. Do a second try. I hope that we can listen. يا طالع عين عين للجبل يا مول للمقيدين النار بين لليامان يامان عين للهنا يا روح ما بعتي منك للكم خلعة ولا لا لا لا بدي زنار بين لليامان يامان عين للهنا يا روح إلا بدي من كيلكم خلعة ولا لا لا لا بدي ملبوس بين الليل يا من يا من عين الليل أنا يا روح الحلم اللي كان رح يفتح باب الدكان بكرة منرجع زي زمان وتصيروا تيجوا عنا شعبنا جبار ما نسيوا مفتاح الدار كبروا أطفال الحجار وباحوا ريحة الحارة مشتاقة أرجع عند ترابك يا أقصانا أوصل بابك ونتلاقى نحضن أهلنا نطمن أطفالنا في بلاد السلام Da Middle East Eye parte, vi riportiamo parte della cronaca dell'attacco di ieri notte a Gaza. Gli attacchi aerei hanno iniziato a colpire tutti i 5 comuni di Gaza dal nord a sud intorno alle 3 del mattino, il 18° giorno del mese sacro di Ramadan. Le immagini trasmesse da Al Jazeera mostrano i bambini e neonati tra i morti e i feriti. Almeno 413 persone sono state uccise e 660 ferite, secondo il Ministero della Salute palestinese. Il portavoce della difesa civile di Gaza ha detto che almeno 130 bambini e decine di donne sono stati uccisi nei massacri. Yosher Al-Gharb, sopravvissuto al bombardamento notturno, ha detto che gli attacchi aerei hanno ucciso la sorella incinta, suo marito e 3 dei loro figli. Il quarto figlio è in gravi condizioni. L'attacco è stato diretto, senza avvertimenti, ha detto Gar al Middle East Eye, fuori dall'ospedale di guerra di Nasser a Khan Yunis. Era un chiaro bersaglio, è stato un chiaro attacco contro i civili, compresi i bambini. Un attacco assolutamente barbaro. Non c'è nessun mondo arabo o anche mondo europeo o mondo islamico che abbia parlato. Se un gattino fosse stato ucciso, il mondo avrebbe protestato, ma invece il silenzio è assordante. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto di aver dato istruzioni ai militari di prendere forti misure contro Hamas a Gaza, accusando il gruppo di rifiutare di rilasciare i prigionieri e di respingere tutte le proposte di cessate il fuoco. Ma noi sappiamo che non è vero che gli accordi sono saltati perché Hamas non ha restituito gli ostaggi. Sono saltati perché Netanyahu, per tutto il tempo della tregua, ha continuato a massacrare i civili palestinesi in Cisgiordania. Sono saltati perché Netanyahu ha dichiarato: non intendo rispettare l'accordo che ho preso di liberare il corridoio Filadelfia in cambio degli ostaggi. Israele ha detto: voglio gli ostaggi, ma non voglio dare in cambio quello che ho promesso. Gli accordi sono saltati per questo motivo. L'amministrazione Trump e la Casa Bianca sono stati consultati dagli israeliani sui loro attacchi a Gaza stasera e, come il presidente Trump ha chiarito ad Hamas, agli Houthi, all'Iran e a tutti coloro che cercano di terrorizzare non solo Israele ma gli Stati Uniti d'America, vedranno un prezzo da pagare. L'esercito israeliano ha detto è disposto a continuare gli attacchi su Gaza per tutto il tempo necessario e che estenderà la campagna oltre i colpi oltre i bombardamenti aerei. In seguito ha emesso ordini di sfollamento da vaste aree della striscia di Gaza, una mossa che spesso precede brutali attacchi terrestri. I militari hanno descritto gli attacchi come diretti contro i comandanti e le strutture e le infrastrutture di Hamas, ma filmati e rapporti locali indicano che decine di civili sono stati uccisi e feriti. Il primo ministro Netanyahu ha dichiarato martedì che i negoziati per ripristinare la tregua a Gaza proseguiranno solo sotto tiro, aggiungendo che la pressione militare su Hamas è una condizione critica per garantire il rilascio dei prigionieri ancora detenuti a Gaza. E ha concluso dicendo: questo è solo l'inizio. A Firenze una folla numerosissima si è radunata davanti a Palazzo Vecchio. Ascoltiamo adesso la voce di Shirin dei giovani palestinesi e quella di Edo di Firenze per la Palestina. Oggi ci siamo svegliati tutti con le stesse immagini. Con il 7 ottobre ci hanno raccontato lo sfinimento di 40 bambini con la testa tagliata, ma noi dal 7 ottobre non abbiamo visto altro che bambini palestinesi senza testa, bambini senza armi, bambini senza le famiglie, per cui è diventato così normale che in una sola notte, in poche ore, abbiamo visto più di 120 bambini smacellati. È brutto dire questo e rimpiango ogni singola anima che in questa notte non ha più rivisto la luce. Ma noi sappiamo che durante il mese di Ramadan loro non sono altri che dei martiri. Loro sono dei martiri e per cui avranno una nuova vita. Ma noi qui in Italia, noi qui che continuiamo a vivere, è questo l'inferno che stiamo vivendo. Il vedere queste immagini e essere presenti in piazza solo dopo dei massacri, quando dovremmo essere presenti qui ogni singolo giorno, fino a quando il comune qui non prende una decisione, fino a quando la Giorgia Meloni non prende una decisione, fino a quando nessuna arma venga mandata a bombardare i bambini. E qui parliamo molto dei bambini, ma non vedo la rabbia, non vedo la tristezza anche per un singolo bambino perso. C'è, ma non è abbastanza. C'è, ma dobbiamo essere presenti ancora di più. C'è e bisogna farlo sentire ancora di più. C'è e bisogna riuscire a coordinarci in modo tale che queste armi che attraversano i nostri territori non vengano più permessi, non vengono più inviati, non vengono più inviati per macellare i bambini, non vengono più inviati per costruire e giustificare la democrazia qui in Italia, la democrazia, la tanto famigerata democrazia europea, che ora si sta armando 800 miliardi di euro per riarmo contro cosa? Tutte le armi inviate a Israele, a che cosa servono? La civiltà che noi godiamo, la civiltà con cui noi vantiamo le nostre vite normali, sono costruite da queste armi, sono costruite da l'oppressione dei popoli. E quindi bisogna fare una domanda al riguardo. Ma noi, questa tranquillità, per quanto durerà? Per quanto durerà prima di entrare in guerra contro la Russia, di entrare in guerra contro l'ignoto? Perché alla fine è questo quello che si sta vedendo. I giornali di stamani mentre uno dovrebbe vedere il disdegno rispetto al massacro che abbiamo visto. Che cosa scrivono? Israele bombarda per far scomparire Hamas. Ma quale Hamas? Se l'abbiamo saputo in questo mese e mezzo, quest'anno e mezzo, l'hanno detto loro che non c'è modo di sconfiggerli. Perché la forza della resistenza è qui, che per qualsiasi leader ucciso, per qualsiasi comandante ucciso, 100.000 ne rinascono. E per cui, che cosa significa bombardare ospedali? Che cosa significa bombardare bambini? Se non continuare con questo genocidio. E quindi, oggi siamo in tanti e bisogna ribadire sempre di più la nostra presenza qui in città, non in quanto come sfogo della rabbia, ma come inizio, come un inizio della presenza e fare pressione alle istituzioni, fare pressione e avere un effetto, seppur minimo, nel genocidio che stiamo vedendo attualmente. E per cui il 12 aprile saremo a Milano con il corteo nazionale, ma saremo qui a Firenze il 30 marzo in corteo, ma saremo qui durante le settimane con iniziative innumerevoli per conoscersi, per esprimere questa rabbia, ma soprattutto iniziare a capire da dove bloccare queste armi. E quindi, fino a quando la Palestina non è libera, noi saremo qui. Parlo anche a nome di Firenze per la Palestina. Ringraziamo veramente con il cuore i giovani palestinesi che in tutta Italia, insieme a altre realtà, hanno organizzato i presidi. In tante città in Italia si stanno mobilitando per denunciare quanto è avvenuto e quanto avviene. Perché non ci sbagliamo, nessuno di noi si era illuso della tregua, anzi l'hanno chiamata tregua, ma la macchina da guerra israeliana si era soltanto spostata da Gaza alla Cisgiordania, quando invece il popolo palestinese è uno. Non a caso oggi, proprio oggi, in Cisgiordania ci sono le manifestazioni di solidarietà dei palestinesi nei confronti dei palestinesi che vengono massacrati per l'ennesima volta a Gaza. Questo è un segnale importantissimo, perché ripeto, non c'era tregua. Certo, c'è stato un rallentamento rispetto a quello che è stato ed è il genocidio nei confronti dei palestinesi a Gaza, un rallentamento che dobbiamo esclusivamente ringraziare la resistenza palestinese, che da oltre un anno resiste a un genocidio in corso ad opera degli israeliani, ma ad opera degli statunitensi che appoggiano Israele, dell'Occidente complice, compresa l'Italia, compresa la giunta di questo palazzo, della sindaca Funaro, che non osa assolutamente spendere una parola rispetto a quanto sta avvenendo e invece ha avuto il coraggio di essere presente a quello schifo di manifestazione che è stata a Roma. In 1948 the natives were expelled from the land of their ancestors, their homes and city shelled, from the traitors in Transjordan to clandestine British demand, by the settlers' Zionist army that rampaged across the land. Oh Palestine, oh Palestine, we hear your desperate plea that once again across the land your people can be free. Oh Palestine, oh Palestine, your people live in fear. We demand your emancipation from the river to the sea. In 1967